Margaret si sedette accanto a lui in carrozza, quasi tenendolo tra le braccia e ripetendo tutti i versi solenni sul conforto sacro o i brani che parlano di rassegnazione nella fede che riuscì a ricordare. La sua voce non fu mai esitante, come se fare questo le infondesse una gran forza. Le labbra del padre si muovevano dopo quelle di Margaret, che gli suggeriva le parole, e lui ripeteva quei testi che conosceva bene. Fu terribile vedere con quale paziente lotta si sforzava di ottenere quella rassegnazione che non aveva la forza di far entrare nel suo cuore come parte di sé. La forza d'animo di Margaret quasi venne meno quando Dixon, con un piccolo movimento della mano, le fece notare Nicholas Higgins e sua figlia, che stavano un po' in disparte ma profondamente attenti alla cerimonia. Nicholas indossava il suo solito abito di fustagno, ma aveva un pezzetto di stoffa nera cucito intorno al berretto, un segno di lutto che non aveva mai portato in memoria di sua figlia Bessie. Ma il signor Hale non vide nulla, continuava a mormorare, di fatto meccanicamente, tutta la liturgia funebre così come veniva letta dall'officiante. Fece due o tre sospiri quando tutto fu finito, dopodiché, posando la mano sul braccio di Margaret, supplicò in silenzio di essere portato via, come se lui fosse un cieco e lei la sua fidata guida. Dixon piangeva forte, si copriva il viso con il fazzoletto ed era così assorta nel suo dolore che non si accorse che la folla, attirata da simili occasioni, si stava disperdendo finché non le si avvicinò qualcuno che voleva parlarle. Era il signor Thornton. Era stato lì tutto il tempo, in piedi, con il capochino, dietro a un gruppetto di persone, cosicché di fatto nessuno lo aveva riconosciuto. «Vi chiedo scusa, ma potete dirmi come sta il signor Hale? E anche la signorina Hale, mi farebbe piacere sapere come stanno entrambe». «Certo, signore, stanno come ci si aspetta che stiano. Il padrone è terribilmente distrutto. La signorina Hale l'ha presa meglio del previsto». Thornton avrebbe preferito sentire che stava soffrendo per quel dolore naturale. In un primo momento fu abbastanza egoista da provare piacere all'idea che il grande amore che provava per lei potesse confortarla e consolarla. Quasi quello strano tipo di piacere intenso che punge il cuore di una madre quando culla tra le braccia il suo piccolo neonato, che dipende da lei per qualsiasi cosa. Ma questa deliziosa visione di quel che sarebbe potuto essere, sulla quale, nonostante tutta la repulsione di Margaret, avrebbe indugiato fino a pochi giorni prima, venne tristemente disturbata dal ricordo della scena che aveva visto vicino alla stazione di Outwood. Beh, tristemente disturbata non è un'espressione abbastanza forte. Il ricordo di quel bel giovane con cui l'aveva vista in atteggiamenti così confidenziali lo tormentava e quel ricordo lo trafisse completamente come una sofferenza atroce e gli fece stringere forte le mani per soffocare il dolore. A quell'ora tarda, così lontana da casa, ci voleva un grande sforzo morale per riportare in vita la sua fiducia, perfetta fino a quel momento, nell'immacolata purezza di Margaret. Non appena quello sforzo cessò, la sua fiducia piombò a terra morta e inerme, e deliranti fantasie di ogni sorta si rincorsero come sogni nella sua mente. Ecco qui una piccola, misera conferma a torturarlo. L'aveva presa meglio del previsto, in una simile sciagura. Allora aveva qualche speranza, così luminosa che riusciva persino a schiarire le ore buie di una figlia affezionata che aveva appena perso la madre. Sì, lui sapeva come sarebbe stata capace di amare. Non l'avrebbe amata se per istinto non avesse saputo quali potenzialità aveva dentro. L'anima di lei avrebbe camminato alla gloriosa luce del sole se un uomo fosse stato degno, con la forza del suo sentimento, di conquistarsi il suo amore. Persino nel lutto si sarebbe affidata con serena fiducia alla sua comprensione. La sua comprensione. Sua di chi? Dell'altro uomo. E il fatto che ci fosse un altro bastò a rendere il pallido e serio volto del signor Thornton doppiamente smorto e rigido alla risposta di Dixon. «Credo che passerò a fare una visita», disse con tono freddo, «al signor Hale, intendo. Forse accetterà di vedermi da domani in poi». Parlò come se la risposta fosse una questione che non lo riguardava, ma non era così. Nonostante tutto il suo dolore, non vedeva l'ora di vederne l'artefice. Sebbene odiasse Margaret alle volte, quando pensava invece ai suoi modi familiari e gentili e a tutte le circostanze in cui aveva potuto mirarli, provava un desiderio irresistibile di rinnovare l'immagine di lei nella sua mente. un desiderio ardente dell'aria stessa che lei respirava. Era in preda alla passione, risucchiato dal vortice di Caridi a ogni giro più vicino, al centro fatale. Suppongo, signore, che il padrone vorrà vedervi. Era molto dispiaciuto per avervi rifiutato di ricevervi l'altro giorno, ma quello non era un momento opportuno. Senza nessuna particolare ragione, Dixon non menzionò mai questa conversazione che aveva avuto con il signor Thornton a Margaret. Magari poteva essere stato semplicemente un caso, ma fu così che Margaret non seppe mai che aveva partecipato al funerale della povera madre. 34. Vero e falso. Il prenderla meglio del previsto equivaleva per Margaret a uno sforzo terribile. Certe volte pensava di dover cedere e di scoppiare per il dolore. Quando il pensiero improvviso di non avere più una madre l'attraversava, persino durante le conversazioni apparentemente allegre con suo padre. Anche Frederick era motivo di grande apprensione. Di domenica la posta non arrivava e così le loro lettere da Londra erano bloccate. E martedì Margaret fu sorpresa e sconfortata dalla scoperta che non ci fosse ancora nessuna lettera da parte di Frederick. Non sapeva quasi nulla dei suoi piani e suo padre era disperato per tutta quell'incertezza, quella sua nuova abitudine di trascorrere mezza giornata seduto in poltrona in silenzio con Margaret si spezzò. Continuava a camminare su e giù per la stanza, poi usciva e lei lo sentiva aprire e chiudere le porte delle camere di sopra in corridoio, apparentemente senza uno scopo. Tentò di tranquillizzarlo leggendo ad alta voce, ma era evidente che non riusciva ad ascoltare a lungo senza fare una pausa. Era così grata, quindi, di essersi tenuta per sé quell'ulteriore motivo di preoccupazione causato dal loro incontro con Leonards. Fu sollevata quando venne annunciato il signor Thornton. La visita avrebbe costretto i pensieri del padre a prendere un'altra rotta. Lui andò dritto verso suo padre, prendendogli le mani e stringendogliele senza parlare, tenendole tra le sue per 1 o 2 minuti, durante i quali il suo viso, i suoi occhi, il suo sguardo rivelarono più partecipazione di qualsiasi parola. Quindi si voltò verso Margaret. Non sembrava stare meglio del previsto. La sua nobile bellezza era offuscata per tutte quelle veglie e le tante lacrime versate. L'espressione sul suo volto rivelava una tristezza paziente e benevola. No, stava davvero soffrendo. Era intenzionato a salutarla soltanto con il freddo contegno che aveva studiato negli ultimi tempi, ma non poté fare a meno di andare da lei, che stava un po' in disparte, ammorbidito dall'irresolutezza che notò nei suoi modi di poco prima, e dirle qualche necessaria parola di circostanza con voce così tenera che gli occhi le si riempirono di lacrime, e si allontanò per nascondere la sua emozione. Prese il suo lavoro di cucito e si sedette, quieta e silenziosa. Al signor Thornton batteva forte il cuore e per quel momento dimenticò completamente il vicolo di Outwood. Cercò di parlare al signor Hale, fu insolitamente accondiscendente con il padre, notò Margaret. La sua presenza costituiva sempre una qualche forma di svago per il signor Hale e la sua forza e la sua risolutezza facevano di lui e delle sue opinioni un porto sicuro. Poco dopo, Dixon arrivò sulla porta dicendo: «Signorina Hale, chiedono di voi». Dixon era così agitata nei modi che a Margaret venne un colpo al cuore. Era successo qualcosa a Fred, non aveva dubbi, era un bene che suo padre e il signor Thornton fossero così tanto impegnati nella loro conversazione. «Cos'è successo, Dixon?» chiese Margaret subito dopo aver chiuso la porta del salotto. «Da questa parte, signorina», disse Dixon aprendo la porta di quella che era stata la camera da letto della signora Hale e che adesso era quella di Margaret, dal momento che suo padre si rifiutava di dormire lì dopo la morte della moglie. «Oh, non è niente, signorina», rispose Dixon con il fiato corto. «Solo un ispettore della polizia vuole vedere voi, signorina, ma a mio parere non è assolutamente niente». «Ha menzionato?» chiese Margaret con voce quasi impercettibile. «No, no, signorina, no, non ha menzionato nulla, ha soltanto chiesto se vivevate qui e se poteva parlarvi. Marta è andata ad aprire e l'ha fatto entrare, gli ha indicato la porta dello studio del padrone. Sono andata io da lui per vedere se poteva bastare, ma non c'è niente da fare, è voi che vuole, signorina». Margaret non disse più nulla finché la sua mano non fu sulla maniglia della porta dello studio. Qui Si voltò e disse: «Stai attenta che papà non scenda, il signor Thornton è con lui ora». Quando lei entrò, l'ispettore fu piuttosto intimidito dal suo atteggiamento. I suoi modi esprimevano una certa indignazione, che tuttavia era così trattenuta e controllata da conferirle un'aria superba e sprezzante. Non c'era nessuna sorpresa, nessuna curiosità. Stava lì in piedi, ad aspettare che lui incominciasse a dirle cosa fosse andato a fare lì. Nemmeno una domanda da parte sua. «Perdonatemi, signorina, ma il mio dovere mi obbliga a farvi alcune semplici domande. Un uomo è morto all'ospedale in seguito a una caduta avvenuta alla stazione di Outwood tra le 5 e le 6 di giovedì sera, il 26 di questo mese. Sul momento questa caduta non era sembrata avere nessuna grave conseguenza, tuttavia, secondo i medici, alcune complicazioni interne e l'abitudine di bere di quell'uomo l'hanno resa fatale». Le pupille dei grandi occhi neri fissi sul volto dell'ispettore si dilatarono leggermente. A parte ciò, nessun altro movimento venne percepito da quell'osservatore esperto. Le si gonfiarono le labbra formando una curva più accentuata del normale in seguito alla contrazione dei muscoli, ma lui non conosceva il suo aspetto abituale, tanto da rendersi conto dell'alterazione, incontrollata e risentita, nei loro contorni rigidi e ampi. Non si spaventò, né si mise a tremare, teneva lo sguardo fisso su di lui. Quindi, durante una pausa che lui fece prima di proseguire, lei disse, come per incoraggiarlo a raccontare la sua storia: «Ebbene, continuate. Si suppone che dovrà essere fatta un'indagine. C'è qualche vaga testimonianza che prova che il colpo o la spinta o la colluttazione che ha causato la caduta sia stata una conseguenza dell'atteggiamento insolente di questo povero mezzo ubriaco nei confronti di una giovane signora che stava camminando con l'uomo che ha spinto il deceduto oltre il bordo della banchina. Questo è quel che ha visto uno che si trovava sulla banchina, che tuttavia non ha dato peso alla cosa, dal momento che la caduta non era sembrata causare gravi conseguenze. C'è qualche ragione per pensare che quella signora siate voi. In tal caso...» «Non ero lì», disse Margaret, continuando a guardarlo dritto in faccia con occhi impassibili, con quell'aria stranita che hanno i sonnambuli. L'ispettore si inchinò, ma non disse nulla. La signora che gli stava di fronte non mostrava alcuna emozione, alcun fremito di paura, nessuna agitazione, nessun desiderio che l'interrogatorio finisse. Le informazioni che l'ispettore aveva ricevuto non erano molto precise. Uno dei facchini, uscendo di corsa per essere pronto all'arrivo del treno, aveva visto una zuffa dall'altra parte della banchina tra Leonards e un gentiluomo accompagnato da una signora, ma non aveva sentito nulla. E prima che il treno avesse raggiunto la sua piena velocità dopo la partenza, era stato quasi gettato a terra da Leonards che, arrabbiato e mezzo brillo, correva a rompicollo, imprecando e bestemmiando in modo orribile. Non ci aveva più pensato finché la sua testimonianza non venne rintracciata dall'ispettore, che facendo ulteriori indagini nella stazione aveva sentito dire da un capostazione che una giovane signora e un signore erano lì più o meno a quell'ora. La signora era particolarmente avvenente e aveva detto che, secondo l'aiutante del droghiere, che in quel momento era lì, si trattava della signorina Hale, che abitava a Crampton e la cui famiglia faceva acquisti nella sua bottega. Non c'era alcuna certezza che quelle due coppie di signore e signora fossero le stesse, ma era molto probabile. Lo stesso Leonards era andato poi a consolarsi, mezzo impazzito per la collera e il dolore, nella bottega del gin più vicina, e lì i camerieri, indaffarati, non avevano prestato attenzione alle parole di quell'uomo ubriaco. Tuttavia si ricordavano che si era alzato all'improvviso, maledicendosi per non aver pensato prima a usare il telegrafo, per un qualche motivo sconosciuto, e avevano creduto che fosse uscito con l'idea di andare a farlo, mentre era per strada, sopraffatto dal dolore o dall'alcol, si era disteso per terra, dove la polizia l'aveva trovato e l'aveva portato in ospedale. Lì non aveva mai ripreso conoscenza del tutto per essere in grado di fare un qualche resoconto dettagliato della sua caduta, anche se una o due volte aveva avuto dei barlumi di coscienza abbastanza lunghi da spingere le autorità a chiamare il magistrato più vicino, con la speranza che potesse scrivere la deposizione dell'uomo morente in merito alla causa della sua morte. Ma quando il giudice era arrivato, stava vaneggiando di essere in mare, mescolando in modo confuso nomi di capitani e tenenti con quelli dei suoi colleghi facchini della stazione, e le sue ultime parole erano state un'imprecazione contro la mossa della Cornovaglia. che, disse, gli aveva levato le 100 sterline che gli spettavano. L'ispettore ripercorse tutto ciò nella sua mente. La vaghezza delle testimonianze che provavano che Margaret era stata alla stazione, la calma e irremovibile sicurezza con cui lei aveva smentito una tale supposizione, era lì in piedi, in attesa delle sue prossime parole, con una tranquillità che sembrava ineffabile. Quindi, signorina, negate di essere voi la signora che accompagnava quel signore che ha sferrato il colpo, o che ha dato la spinta, che ha causato la morte di questo pover'uomo? Margaret sentì improvvisamente una fitta acuta alla testa. Oh, grazie, signore, Frederick è salvo. Un osservatore acuto dei volti umani si sarebbe potuto accorgere di quell'attimo di agonia che era schizzato fuori dai suoi grandi occhi tetri, come la sofferenza di un individuo quando viene messo alle strette. Tuttavia l'ispettore, per quanto fosse un osservatore perspicace, non andò molto in profondità. Ciò nonostante, rimase leggermente colpito dalla sua risposta, che gli era parsa in qualche modo una ripetizione meccanica di quella che aveva dato prima. La struttura era la stessa, non l'aveva riadattata alla sua ultima domanda. Non ero lì, disse lentamente e con forza. E pronunciando quelle parole, tenne gli occhi sempre aperti, senza distogliere quello sguardo fisso e onirico. Improvvisi sospetti affiorarono nella mente dell'ispettore a quella lenta ripetizione del suo precedente diniego. Era come se si fosse costretta a dire una sola bugia e fosse rimasta tramortita, senza alcuna possibilità di modificarla. Aprì cautamente il suo taccuino degli appunti, poi alzò lo sguardo. Era rimasta perfettamente immobile, come una grande statua egizia. Beh, spero non mi reputiate insolente se vi dico che potrei dover venire di nuovo a farvi visita. Potrei essere costretto a convocarvi per comparire nell'ambito dell'inchiesta e per fornire un alibi se i miei testimoni, era uno solo ad averla riconosciuta, continueranno a dichiarare la vostra presenza sul luogo del malaugurato evento. Le lanciò una rapida occhiata. Era ancora perfettamente calma. Il suo volto fiero non aveva cambiato colore, né si era adombrato per la colpa. Gli sembrò di averla vista fare una smorfia. Non conosceva Margaret Hale. La sua regale compostezza lo metteva un po' a disagio. Doveva essersi trattato di uno scambio di identità, continuò. È molto improbabile, signorina, che debba fare una cosa del genere. Spero che mi scuserete. Sto facendo quello che è soltanto il mio dovere, anche se posso sembrare insolente. Margaret chinò il capo mentre lui si dirigeva verso la porta. Le sue labbra erano rigide e secche, non riuscì a pronunciare nemmeno le usuali parole di commiato, ma all'improvviso fece alcuni passi in avanti, aprì la porta dello studio e lo precedette sulla porta di casa che spalancò per farlo uscire. Tenne gli occhi fissi su di lui, con lo stesso sguardo vitreo, fino a quando non fu ben lontano da casa. Chiuse la porta e fece per andare nello studio, poi tornò indietro come in preda a un qualche irrefrenabile impulso e chiuse la porta col chiavistello. Dopodiché entrò nello studio, si fermò, fece qualche passo incerto, si fermò di nuovo, restò in piedi oscillando per un istante, poi cadde a faccia in giù sul pavimento, svenuta. 35. Espiazione. Il signor Thornton continuava a stare lì, seduto. Sentiva che al signor Hale faceva piacere la sua compagnia e si commosse per la bramosa supplica detta a metà di fermarsi ancora un po'. Quel triste non andare via di già che il suo povero amico pronunciava di tanto in tanto. Si chiedeva come mai Margaret non tornasse, ma non era con lo scopo di vederla che si tratteneva. Per l'ora, e in presenza di una persona che sentiva così intensamente l'inconsistenza terrena, era comprensivo e controllato. Tutto ciò che suo padre diceva lo interessava profondamente. Era curioso come la presenza del signor Thornton esercitasse un certo potere sul signor Hale, da fargli svelare i pensieri segreti che teneva nascosti persino a Margaret. Forse era perché la comprensione della figlia sarebbe stata così profonda e si sarebbe manifestata in un modo così incontrollato che temeva la propria reazione, o forse perché dubbi di ogni sorta si erano presentati nella sua mente speculativa proprio in quel momento, facendosi sentire con gemiti e pianti per essere trasformati in certezze, e perché sapeva che Margaret avrebbe preso le distanze dall'espressione di dubbi di quel genere. anzi da lui stesso, perché capace di concepirli, qualunque fosse la ragione, con il signor Thornton riusciva ad alleggerirsi più che con la figlia di tutti i pensieri, le fantasie e le paure che fino a quel momento erano stati congelati nella sua testa. Il signor Thornton parlava pochissimo, ma ogni frase che pronunciava accresceva la fiducia e la stima che il signor Hale aveva di lui. Nel caso in cui si fosse interrotto nell'esprimere qualche doloroso ricordo, due o tre parole del signor Thornton avrebbero completato la frase, dimostrando quanto la loro intesa fosse profonda. Nel caso di un dubbio, di una paura, di un'incertezza che vagava in cerca di soluzione senza trovarla, con gli occhi così accecati dalle lacrime, il signor Thornton, invece di sconvolgersi, sembrava avere già attraversato proprio quello stesso stadio del pensiero e poter suggerire dove trovare quel preciso raggio di luce che avrebbe schiarito il buio. Per essere un uomo di azione, impegnato nella dura lotta della vita, c'era nel suo cuore un senso religioso che lo legava a Dio, malgrado la sua ferrea ostinazione e a dispetto di tutti i suoi errori, più profondo di quanto il signor Hale avesse mai immaginato. Non capitò più che riparlassero di queste cose. Tuttavia, quest'unica conversazione li rese persone speciali l'uno per l'altro, li unì come nessun discorso vago e libero su questioni sacre riesce a fare. Se ogni cosa fosse concessa, come potrebbe esserci un santo dei santi? E per tutto questo tempo, Margaret giaceva immobile e bianca come la morte sul pavimento dello studio. Era sprofondata sotto il suo fardello. Era stato pesante, lo aveva portato a lungo ed era stata molto mite e paziente fino a quando aveva perso improvvisamente i sensi e barcollando aveva cercato invano aiuto. La sua bella fronte era penosamente contratta per il dolore, sebbene questo fosse l'unico segno di coscienza rimastole. La bocca, un attimo prima così cupamente protesa in una severa espressione di sfida, era rilassata e livida. Il primo segno che stava riprendendo i sensi fu un tremolio sulle labbra, un piccolo muto tentativo di parlare senza riuscire a emettere suono. Ma gli occhi erano ancora chiusi e il tremolio sprofondò nell'immobilità. Dopodiché, tenendosi per un attimo debolmente sulle braccia per stare in equilibrio, Margaret raccolse le forze e si alzò. Le era caduto il fermaglio dai capelli e con l'istintivo desiderio di cancellare ogni traccia di debolezza e per ritornare in ordine si mise a cercarlo, anche se di tanto in tanto durante la ricerca era costretta a sedersi per recuperare le forze. La testa le ricadeva in avanti, le mani erano posate delicatamente una sull'altra e cercava di rievocare la necessità di quella menzogna, sforzandosi di ricordare nel dettaglio che cosa l'avesse fatta spaventare a morte, ma non ci riuscì. Comprendeva soltanto due cose: che Frederick aveva rischiato di essere inseguito a Londra e di essere accusato non solo di omicidio colposo, ma anche di essere l'imperdonabile capo dell'ammutinamento, e che lei aveva mentito per salvarlo. C'era un unico conforto: la sua bugia lo aveva salvato. Anche soltanto con il fargli guadagnare tempo, se l'ispettore fosse ritornato l'indomani, dopo l'arrivo di quella lettera che tanto agognava, per essere sicura che il fratello fosse sano e salvo, avrebbe sfidato la vergogna e sarebbe rimasta lì, in piedi, amaramente pentita, lei, la superba Margaret, ad ammettere in caso di necessità, in una affollata aula di giustizia, che si era comportata da cani ed era stata lei. Ma se fosse tornato prima, che lei avesse notizie da parte di Frederick, se fosse arrivato come aveva velatamente minacciato di fare dopo qualche ora, beh, avrebbe detto di nuovo quella bugia, anche se non poteva sapere, non poteva dire come avrebbero fatto le parole a uscirle fuori senza tradire la sua falsità dopo questo lungo momento di riflessione e rimprovero. Ma ripetere quella bugia avrebbe significato guadagnare tempo, tempo per Frederick. Fu ridestata dall'ingresso di Dixon nella stanza. Aveva appena accompagnato alla porta il signor Thornton. Non aveva fatto neanche 10 passi per la strada che un omnibus si fermò lì vicino e scese un uomo che gli andò incontro, toccandosi il cappello come fece lui. Era l'ispettore di polizia. Il signor Thornton lo aveva fatto entrare in polizia e aveva ricevuto di tanto in tanto notizie su quel suo protetto, ma non si erano visti spesso e all'inizio Thornton non si ricordò di lui. «Sono Watson, George Watson, signore, quello che avete...» «Ah, sì, mi ricordo. Beh, ve la state cavando alla grande, ho sentito. Sì, signore, devo ringraziare voi, signore, ma è a riguardo di una piccola questione di lavoro che mi permetto di parlarvi in questo momento. Eravate voi il magistrato che è andato a raccogliere la deposizione di un pover'uomo che è morto all'ospedale ieri notte, credo. Sì, rispose Thornton. Ci sono andato e ho raccolto qualche frase sconnessa che, secondo il soprintendente, non era molto utile. Temo si trattasse solo di un ubriacone, anche se non c'è dubbio che sia stato un gesto violento a condurlo alla morte. Una delle domestiche di mia madre era la sua fidanzata, mi pare, e oggi è distrutta dal dolore. Si sa qualcosa di lui? Beh, signore, nella morte è stranamente invischiata una persona della casa dalla quale vi ho appena visto uscire, quella del signor Hale, credo. Sì? Disse il signor Thornton, voltandosi bruscamente e guardando bene in faccia l'ispettore con improvviso interesse. Cioè? Beh, signore, penso di avere una serie di prove piuttosto evidenti che incriminano il gentiluomo che quella sera stava camminando con la signorina Hale nella stazione di Outwood, come l'uomo che ha colpito o spinto Leonards giù dalla banchina, causandone così la morte. Ma la giovane signora nega di essere stata lì a quell'ora. La signorina Hale nega che era lì, ripeté il signor Thornton con voce alterata. Ditemi che sera è successo, a che ora? All'incirca alle 6, la sera di martedì 26. Continuarono a camminare uno accanto all'altro in silenzio per 1 o 2 minuti. Fu l'ispettore a parlare per primo. Vedete, signore, è probabile che il pubblico ufficiale faccia un'inchiesta e un giovane piuttosto sicuro, o almeno lo era all'inizio. Infatti, da quando ha saputo che la giovane signora nega, dice che non se la sente di giurare. Tuttavia, è piuttosto sicuro di aver visto la signorina Hale alla stazione, che camminava con un signore, neanche 5 minuti prima del momento in cui uno dei facchini ha visto una zuffa, che ha imputato alla solita sfacciataggine di Leonards e che ha portato invece alla caduta che gli ha causato la morte. E vedendovi uscire proprio da quella casa, signore, ho pensato di permettermi magari di chiedervi se... Vedete, è sempre difficile avere a che fare con casi di identità contesa e a nessuno piace dubitare della parola di una giovane e rispettabile signora, a meno che non ci siano prove evidenti del contrario. E lei ha negato di essere stata alla stazione quella sera, ripeté Thornton con tono basso e incredulo. Sì, signore, per 2 volte, più convinta che mai. Le ho detto che sarei passato di nuovo da lei, ma visto che vi ho incontrato, proprio mentre stavo tornando dall'interrogatorio al giovane uomo che sostiene fosse lei, ho pensato di chiedere consiglio a voi, sia come il magistrato che ha visto Leonard sul letto di morte, sia come il gentiluomo che mi ha trovato l'impiego in polizia. Avete fatto molto bene, disse il signor Thornton, non fate niente finché non ci rivediamo. Beh, la signorina si aspetterà che vada a farle visita, da quanto le ho detto. Non voglio rubarvi più di un'ora. Adesso sono le 3, venite in fabbrica alle 4. Molto bene, signore. E si separarono.